dovrebbe piacerle, Zezzoni, che non siete altro. Vedete che se poi faccio vedere vi metto paura. Ma che bel pubblico, vediamo questa bella signora, distinta pure. Ma no, ma poi chi è morto, chi è morto, chi è io castigo, io mi mangio zamboni con indici c'è setta. Che tenerezza. E come va, come va? Mi dica, come va? È ultimamente cutratore. Un ci posso ieri pechisso a benzina costa troppo. Facendo pechicci io mi si piglio 150 euro. Ha capito? Regia, vi ho detto che i casi disperati li dovete mandare da Rita della Chiesa. E che cazzo? Bene, ora che è successo? Presentiamo il nostro ospite, che bello ospite Cadienio. Un ospite di livello mondiale, famoso in tutto il mondo, una star di livelli incommensurabili. Di certo non è Massimo Maneggio, uno che ci capisce. Ecco a voi il biondo più famoso del mondo, Cianduliri. Buonasera a tutti, è un guacchio per molto. Benvenuto, ti dicendo vedi che mi ne è, mentre si menne tira la nota con una cosa specie. Che fascino, che eleganza. Mi gioca c'è maniero, non ti sbambo. Bene caro Cento, benvenuto. Ho visto che stai avendo un successo plateane, un immenso, planetario. Ma Cento, cosa sta facendo con le mani in tasca? Cosa sta ravanando? Per Amazonia, tengo un affare per mano, che se tutto va buono, ti faccio un regalo. Per la miseria, ti ci lascio le rinno, però. Ti ci lascio le rinno, però, ti ci lascio. Come si è piaciuto? Fammi così, piace. Fammi vedere. Bene, parliamo della tua carriera di ballerino. Ma non è che a noi si può fare il fedele, con il fedele c'è due pure, Ah, ma montando tra bacche, signore, del ballerino, no? Sentiamo la musica, ma sì, non chiede, ma... Basta, ferma. E mi è venuto di ballare, oi. Regia! Regia! Musica di una raffinatezza unica, bene Cianduliri, ora vogliamo farti una sorpresina. C'ho bello che ho una sorpresa. Tenatela se che ho una sorpresa, io voglio la cioccolata, capito? La cioccolata, fammi vedere. No, è un video del tuo amico del cuore Garrison, ti ha fatto un video messaggio. Chi ne cazzo è, Kiss? Sentami, ma secondo te sono uscito io o Cido, sono uscito io o Cido, che dici, babbato? Sarà veramente dura arrivata al termine di questa trasmissione. Va, fangù, va. Ciao caro, ti ricordi la festa del 8 settembre a Fagnano Castello, quando abbiamo ballato per Padre Fedele? Ti ricordi dopo serata? Che ricordi? Fatti sentire, mi manchi. E ogni tanto passiamo a trovare, mi manca anche la tua infrastruttura. Che messaggio commovente. Guarda, è uscita una lacrima. Ma che ne è che lo devo vedere? È che ho travestito che stare di posto. Io non ti conosco, senta ma dove vengono sordi, ma ricoglia Cosenza, io mi ricoglio Cosenza, vengono sordi. Come Cosenza? Come Cosenza? Dove vai? Ora siamo arrivati al momento di farti una bella sorpresina. Non me ne frega niente, voglio i soldi che mi hai ieri. La tua compagna con cui hai la pela! E basta! Voglio la pela voi. La tua compagna con cui hai danzato per più di 30 anni, Carmen Russo, è qui, carnevale! Donna, grazie! Compagna! Ma che sei comunista, se? Però io divento comunista su femmine come te, ecco! Ma chi è questo? Io non lo conosco! Ma è Cianduliri, alias Senzo Paolo, come non lo conosci? Regia! Ma cosa avete fatto? Barbara, tu, l'hanno trovato che danni che stava a ballare, e pensavo che era il crocodazzo tuo marito di Carmen Rose. Ah, Carmen Rose è proprio tu! No, la sovertità! Ma quante leghe che ti hai fatto e quando lingua in giallo per te! Senti qua, ma marito sta qua nel connotazzo, ti posso dare una mano. Guarda qua, va, guarda, va. Guarda che ci viene, va. Interessante. Oh mio Dio, vedo la luce. Scusate, dobbiamo interrompere la trasmissione perché c'è un piccolo problema tecnico. Venite, venite che ci ne è per tutto, che tengo 40 anni d'astinenza. Tieni, c'entro lei. Tieni, c'entro lei. Sì, tieni, c'entro lei. Ma vaffanculo. Ma però lei, c'entro lei. Caro giro, stacca. C'entro lei, che cazzo stai cercando? Ah, facci te vedere. Cos'è venuto?